Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Massima allerta a Roma dopo gli attentati di Parigi. Che atmosfera si respira? E lei soprattutto se ha paura? Un po' più di paura di qualche giorno fa, sì. Sto facendo la mia vita, le mie figlie prendono la metropolitana. Io non lascio che dei terroristi condizionino la mia vita. Qualunque minaccia ci sia, già è dentro la città. No, un po' perché mi fido dei nostri servizi. Secondo lei il Giubileo andrebbe rinviato, spostato come data? No, perché a questo punto vuol dire che vincono loro. No. Indipendentemente dalla mia fede religiosa. Ho preso la metropolitana stamattina, c'è polizia dappertutto. Si sente questa atmosfera pesante. Il ministro degli interni Alfano ha rafforzato il sistema di sicurezza. Oddio, probabilmente viviamo in città diverse o io non sono attento. Io l'ho presa la metropolitana stamattina nel punto più critico e più nevralgico. Sì, c'era un soldato col fucile all'entrata che chiacchierava con un carabiniere. A un certo punto si è fermata fra Piazza Barberini e Piazza della Repubblica. Ecco, ci siamo, sento urla, scalpitio, poi scappano di corsa tre zingarelle che hanno provato a rubare la borsa a qualcuno e questo gli correva dietro. Tutto qua, ma è ordinaria amministrazione, non c'era bisogno che arrivasse l'ISIS per farci vedere questi spettacoli. Però diciamo che l'esercizio giornalistico di questa mattina è osservare che nelle grandi città questo primo fine settimana dopo l'attentato di Parigi è stato un fine settimana desolante. La movida romana è scomparsa, penso che anche a Milano è successo qualcosa di simile. Improvvisamente le persone che brindavano champagne nelle settimane precedenti perché arriva il Giubileo finalmente, siamo pazzi, tutti improvvisamente sono rivelati dei profondi e dei affocati cristiani, tutti erano contenti per il Giubileo, adesso cominciano a vedere che sì, si parla di Giubileo, ma è una città deserta, Roma è un deserto. Il sabato sera, che era la serata d'obbligo in cui uscivano tutte le carampane e tutti i ragazzetti di buone speranze per felici incontri, assolutamente, improvvisamente, ognuno è rimasto a casa sua. Vorrei capire se esattamente questa linea di discrimine tocca soltanto le metropoli o anche la provincia italiana. Come avete passato questa fine settimana voi? È cambiato qualcosa nelle vostre abitudini oppure avete fatto quello che fate normalmente, in fondo guardando la televisione, stando alzati fino a notte tardi per vedere quale sarà il comunicato stampa della polizia di Bruxelles dopo la giornata nella ricerca disperata del terrorista fuggitivo? Poi alla fine non hanno detto nulla, però la città era veramente blindata, veramente era tutto chiuso, veramente c'era l'ordine di stare dentro casa, addirittura non bisognava nemmeno twittare quello che stava accadendo, mandavano i gattini per confondere le idee e non dare segnale ai terroristi. Invece leggo messaggi di gente che gira per Roma e tranquillamente fa foto alle pattuglie di polizia che presidiano le piazze e poi le mette su Twitter. Perché? Perché in fondo è una città totalmente abbandonata. E quali sono le escamotage? Beh, vi parleremo oggi di un sistema per riaccoppiarsi o allacciare quei fili sottili che non so, si possono più naturalmente allacciare nei luoghi dove si consumano aperitivi e dove ci si guarda e ci si sogna e ci si prepara per queste serate fantastiche, quindi si va tutti in pellegrinaggio. Tra un istante. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Mio padre comprò quasi nuovo, usato, un pulmino 8,50 della Fiat bianco. Quello bianco, che è quello che ha le ruote posteriori, quando è vuoto ce l'ha lì dentro, quando ci monta qualcuno ce l'ha fuori. Che non c'è una via di mezzo, quelle ruote fanno così. Quei pulmini in uso alle suore. Ecco, le suore avevano. Giugiaro l'aveva disegnata a misura di suora, tant'è vero che dal lingotto di Torino alcuni modelli uscivano già con le suore dentro. Mio padre lo comprò usato, fece scene alle suore che erano arrivate e ci mise a noi di famiglia, perché a noi serviva spazio andando in gita fuori porta, ma fuori porta non perché si andasse lontano, fuori porta perché porta fuori tutto da casa carica tutta la cucina, stacca i pezzi, li possono servire, leva il fornello, porta al tavolo quelle sedie, due panche ci stanno, un po' di coperte, leva tutte, era una specie di trasloco e si andava a tante famiglie, andava insieme, ognuno con la macchina propria e ognuno nel proprio portabagagli metteva la cosa in cui era più capace, cioè il piatto, la pietanza in cui era più bravo. Mia madre per esempio era brava nei pomodori con riso, faceva certi pomodori con riso. Questo è Brignano che racconta il ricordo delle gite fuori porta, quando ancora rappresentava l'alternativa più efficace, più a buon mercato, più a portata di tutti. Però si parlava degli anni del boom, in cui avere anche un pulmino familiare era considerato un lusso. Oggi come mai si lamenta, ad esempio, il presidente della FIPE Confcommercio, che sono i bar, i ristoranti e le pizzerie di Roma, dice, ma è calato del 20% il pubblico. Come? Eravamo il momento in cui cominciava la ripresa, la gente ricominciava a consumare, sembrava dimenticare qualcosa che perlomeno apparteneva al passato, il fosco momento della crisi, dell'austerità, e improvvisamente arriva la minaccia del terrorismo. Voi come avete passato il vostro sabato sera? Cosa è cambiato nel vostro uso abituale di passare una giornata diversa, una serata diversa? Perché le grandi città si sono spopolate. L'Italia improvvisamente si è trovata discriminata. Da una parte l'Italia metropolitana, che ha paura perché si sente obiettivo sensibile, l'altra Italia, quella più popolosa, quella più diffusa, quella probabilmente meno sotto l'occhio del ciclone, quella delle province, cosa ha fatto? È tutto stato uguale? Serate, balere, pizzerie, magnate, castelli, le fontane che danno vino, sempre le stesse cose. 800240024. Emilio, buongiorno. Buongiorno. Lei innanzitutto dove si produce i suoi fine settimana? In quale città? Allora, il mio fine settimana si produce in un paesino della provincia di Cuneo che si chiama Mango d'Alba. Allora, Mango d'Alba non c'è allarme terrorismo? Ma, allora, venerdì sera nel castello c'è stata la bagna cauda e abbiamo partecipato, saranno state una cinquantina di persone, perché era il bagna cauda day. Lei sa cos'è, no? Sì, quella cosa con l'aglio, quella cosa lì. Bravo. Sì, lo so, per me è inavvicinabile. Contiene due elementi che per me sono equivalenti alla criptonite per Superman, il cavolfiore e l'aglio, quindi per me io ho mangiato quella eretica perché un negozio ad Alba e sabato non mi avrebbero neanche lasciato avvicinare al negozio. Comunque domenica a Mango, sempre nel castello, c'è stata una manifestazione, i ragazzi, gli studenti che fanno le scuole alberghiere, le scuole da pasticcero, cosa, hanno presentato le loro torte, c'era una giuria la quale ha giudicato, hanno dato i premi, tutto normale. Come se nulla fosse, diciamo. Come se nulla fosse. Al mattino ho l'abitudine di andare con un gruppo di persone a passeggiare, a camminare, non passeggiare, andiamo nei boschi, c'è un signore che tiene 150 chilometri di sentieri puliti e tutte le domeniche ci fa fare un giro. Ecco, l'unica cosa diversa dal solito era una pattuglia dei della polizia che c'era all'incrocio prima di arrivare alla Morra, che è sempre un paese della provincia di Cuneo, importante, che non abbiamo mai visto. Ecco, questa è stata l'unica cosa. Normale controlli del traffico, probabilmente. Avranno fatto qualche contravvenzione dei ciclisti se non portano dietro la pompa nel caso di sgonfiarsi la bicicletta. Ordinaria amministrazione. Quindi vediamo che l'Italia è molto più variegata. L'Italia non è soltanto rappresentata da quello che accade a Roma. Oggi tutti sono preoccupati perché a Roma sabato sera non accadeva nulla, non usciva più nessuno, non c'era movida. Il resto dell'Italia mangia bagna cauda e va a fare passeggiate per i sentieri. Roberto. Sì, salve, buongiorno. Dunque, io vivo in provincia a Pesaro e volevo dire, da me chiaramente non è cambiato assolutamente niente, però ieri quando c'era, no, quell'operazione di polizia in Belgio, ho pensato di chiamare un mio amico che vive proprio a Bruxelles. Questa persona mi ha risposto quasi a cenni su Facebook, nel senso che lui era sicuramente in un bar, non sapeva niente di niente, e da quanto ho capito era mezzo ubriaco, perché rispondeva proprio a cenni. Da qualcosa mi ha fatto pensare. Ma abitualmente il suo amico si ubriaca la domenica sera o era una situazione eccezionale? Beveva per dimenticare il clima occlusivo e oppressivo e plumbeo? quello, non credo affatto fosse per quello, cioè lui ha l'abitudine effettivamente di frequentare i bar e dopo lì si ubriaca, che è un piacere, lo fa con una certa abitudine. E lui stava proprio vicino alla Grand Place di Bruxelles? Dunque, non so esattamente dove lui vive, lì da diversi anni, io lo volevo quasi avvertire di questa cosa, perché io so che lui non legge i giornali e non guarda la televisione. Vabbè, grazie, lui esce la mattina, va all'osteria, si imbriaca, la sera lo riporteranno a casa con la carriola, per lui può succedere qualunque cosa, è chiaro? In teoria, però chiaramente io ho pensato di avvertirlo così magari senza metterlo... Già sta attento, che, cioè, ma tante volte no? Esattamente, e lui da quanto ho capito era in questo bar che come al solito beveva. La qualcosa può fare pensare che forse potrebbe essere anche il modo giusto per affrontare la cosa, forse, non lo so. Due, si potrebbe anche pensare che questa paura che arriva da noi, e questo probabilmente è il nodo centrale di tutte le questioni, è questa paura che arriva da noi deriva dal fatto che ci sono paesi che sono bombardati tutti i giorni, che prima o poi reagiscono. Che poi che siano dei pazzoidi, no, alienati. Beh, adesso lei sta facendo valutazioni di politica internazionale come fosse una chiacchiera da bar. Oggi il tema è: voglio capire cosa ha fatto l'Italia quest'ultimo fine settimana, visto che questa mattina i giornali danno come notizia il fatto che a Roma non ci fosse movida, probabilmente anche a Milano qualcosa del genere. Romani e milanesi, ditemi se avete partecipato a questa sorta di casto coprifuoco. Persone che venite dal resto, che vivete nel resto d'Italia, ditemi come l'Italia in realtà, al di là delle notizie, delle prime pagine dei giornali, comunque continua tranquillamente a fare la sua vita. Franca, buongiorno. E buongiorno, io telefono da Cremona, che è ovvio una città di provincia, e volevo dire che il sabato... È quella delle 3T o sbaglio? No, mi sbaglio. No. C'è stato, è iniziata la festa del torrone che dura 9 giorni. Sì, vedi, è Cremona, le 3T. Ma non avevo capito la lettera. Le 3T, T come sì. Torino, è quella, no? No, Cremona è CR. Vabbè, no, Cremona? La città delle 3T è Cremona. Ah, Torroni, la città delle 3T è Cremona. Sì, Torroni? Sì, sì. Turas, una volta si diceva Tetas, adesso dica, si aggiunge Torra, si aggiunge Tognazzi. Esatto, sì, una grande. Ci sono i torroni, le torri e le tette, quella sì. La città per cui andate famose. E sì. Cosa è cambiato in questa sorta di cornucopia nulla. Di felicità? Nulla. Guardi, non è cambiato nulla. Nei giorni feriali la vita scorre come sempre, anche perché non essendo una città molto affollata si nota meno. Non ci sono obiettivi sensibili, queste 3T non sono obiettivi sensibili. L'obiettivo sensibile poteva essere il torrazzo. Beh, anche il tettazzo. Infatti anni fa era stato scoperto una specie di covo, ecco. E il capo mandato via. Ed era risultato che in programma c'era una deflagrazione nel Duomo. Cremona, è uno dei più belli d'Italia. Noi la signora, la signora comunque fiera delle 3T, per cui va famosa nel mondo della sua città, ricorda che c'era stato un obiettivo sensibile anche a Cremona, che non era il torrone, non era le tette, ma era la torre. Fabio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sì. Allora, per me la vita non è cambiata, nel senso noi il sabato sera usciamo sempre con gli amici. Da dove? Da dove uscite e dove entrate? Nettuno, provincia di Roma. Nettuno, scusa. Provincia però. Lo so, 60 chilometri da Roma. E niente, il sabato sera cerchiamo più di andare a pizzeria, fare il karaoke. Ma dove andate voi? La transumanza verso la capitale o rimanete in periferia? No, verso qui a zona nostra, Anzio, Lavigno. Litorale. Litorale, sì. E usciamo, ecco, per svagarci un po', andare a farci una cantata, mangiare una pizza e stare in allegria, insomma, se ci riusciamo. Quindi a Nettuno il karaoke non è stato minimamente mutato nella sua tradizione? No, perché vabbè, comunque io ho un pensiero, scusi, secondo me è dall'11 settembre però che è da lì che dobbiamo capire che la vita doveva cambiare un po' per tutti. Ma lei non ne cambia niente, lei anche se saltasse la cupola di San Pietro continuerebbe a fare il karaoke. No, io però c'ho mia figlia che vive a Roma, è un po' preoccupata. Ecco, sua figlia è uscita normalmente con gli amici. Sì, lei esce, però le posso dire una cosa, lei di solito va al cinema multisala. All'Adriano. Vabbè, non voglio fare pubblicità, ma alla multisala. All'Adriano? Sì. No, quello dell'ex Walter Village, diciamo, adesso c'è un altro nome. Vabbè, però domenica si è uscita con un ragazzo, è andata al cinema periferia, diciamo. È andata al Cineforum dei Preti, così almeno rischia meno. Va bene, grazie, vabbè. Ottima notizia. Fermiamoci un istante, tra poco, 800 24 00 24, reportage capillare sulla vita italiana, come è cambiato in questo primo fine settimana dopo l'attentato. Notiamo che comunque la provincia italiana non è stata minimamente scossa da quello che è il tremito di preoccupazione che attraversa l'Europa. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. L'associazione Esercito di Maria presenta il primo pellegrinaggio per single a Međugorje. 31 marzo, 4 aprile 2016, festa della Divina Misericordia. 240 euro il pullman, 240 euro il traghetto da Ancona. Sappiamo bene come Satana sia scatenato contro la famiglia e sappiamo altrettanto bene come il principe delle tenebre non desideri affatto che i figli di Dio formino famiglie sante. Questo non è uno scherzo, è vero. Hanno organizzato il primo pellegrinaggio per single a Međugorje, 800 24 00 24. Stiamo facendo una mappa di quello che è la diffusione impari dell'apprensione, del sospetto, della paura per il terrorismo in Italia. Abbiamo visto che comunque la provincia italiana non si sta muovendo di una virgola rispetto a quello che erano le sue abitudini, quindi gli obiettivi sensibili probabilmente sono quelli che vengono comunicati dagli organi di informazione, gli altri sentono fuori tiri. Quindi Salah Abdeslam probabilmente può andare tranquillamente a Cremona, può andare tranquillamente a Nettuno, può andare a Frascati, nessuno si accorgerà della sua presenza, del suo passaggio. La storia di Međugorje invece è lievemente più articolata. Questa è un'associazione, si chiama l'Esercito di Maria, ma non bisogna scherzarci, è un integralismo opposto a un altro integralismo. Questi però non fanno niente di male, anzi cercano in qualche maniera di giocare in questo momento in cui le persone hanno perso i loro luoghi di aggregazione deputati, quindi anche le ragazze di ottima famiglia, di castissimi sentimenti, anche i bravi ragazzi, quelli con i brufoli anche a 30 anni, prima uscivano, andavano comunque a Campo dei Fiori, magari spendevano una birrettina diluita piuttosto che prendersi una grappetta o un bicchiere di superalcolico, quelle lì andano lì a occhi bassi piuttosto che andarci con il tacco 15 e le minigonne, però comunque erano i luoghi di aggregazione. Non avendoseli più, come si possono incontrare? Come una volta accadeva nei paesi, si andava dal prete, le brave ragazze un po' baffute, un po' ormai fuori taglia rispetto alle attese dei ragazzi, perché passava il tempo, passavano gli anni, i ragazzi con qualche lieve difetto fisico, un po' mammoni, andavano dal prete e assemblava le famiglie, che erano poi il nervo, la dorsale su cui si è costituita la nostra stirpe. Beh, oggi la stessa cosa si fa andando a Međugorje. Chi vuole, in fondo sono 240 euro come investimento per trovare il compagno per la vita. Pensate quanti aperitivi risparmiate, quante gite con avventure nel mondo, quante fine settimane inutili con farlocchioni che vi portano fuori, però alla fine non concludono niente, perlomeno matrimonialmente parlando. Da questa certezza, l'idea di organizzare un pellegrinaggio a Međugorje per soli single, il cui scopo principale è implorare la grazia della Vergine Maria per formare una famiglia santa. Ci prepareremo con la novena della Divina Misericordia, giorno che festeggeremo proprio a Međugorje. Partenza garantita da San Miniato e Prato, con possibilità di salita ai caselli autostradali di Bologna, Padova e altri caselli a richiesta. La quota comprende viaggio andata e ritorno con pullman Gran Turismo o traghetto, sistemazione poltrone. Pensione completa, bevande ai pasti, assicurazione, mance, guida. Quindi chiunque debba avvistare a un dipresso dei caselli autostradali che vanno nel tragitto da Prato a Međugorje, delle folle di ragazze con una ipertricosi apparente o di ragazzi con spessi occhiali che si sono consumate le diottrie con attività autodistruttive negli anni della loro adolescenza e tarda maturità, con le mamme che li accompagnano, con il papà con il cappello, addirittura anche con il prete magari che li porta lì. Ecco, non si preoccupi, non sono sciami di migranti che sono arrivati col barcone, sono semplicemente i bravi ragazzi che vanno a Medjugorje nella speranza di potersi accoppiare. Claudio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Niente, io le racconto che come ogni sabato, anche il giorno dopo Parigi e anche questo sabato che è appena concluso, io dalla provincia di Milano mi sono preso la mia metro, sono arrivato in Porta Genova, ho fatto una bella camminata da Porta Genova, quindi in Arimbi, la nuova Darsena. Da solo? Da solo, Claudio? Sì, sì, sì. È Porta Ticinese via Torino e arrivo a Milano, è in Piazza Duomo, che è una mezz'oretta di notte, questo di notte o di giorno? No, mattina. Ah, la mattina. Dalle 10 di mattina. Questo sia il 14, quindi sabato 14, che è il giorno dopo la strage, che come sempre io quando mi piace Milano, abito fuori Milano, che non è che dove abito io ci sia granché da fare, quindi mi piace molto camminare e la mia Milano me la vedo così. Certo, anche andare a piedi non è proprio per socializza, comunque incontra qualcun altro per strada. Sì, beh, se capita, qualche volta mi trovo con qualche amico o amica, di solito in un bar appunto vicino alla nuova Darsena, adesso hanno fatto... Lei come la vede? No, tanto per avere un parere a caldo, sì. La vedrebbe come un'opportunità possibile questa di Medjugorje? Lasciamo stare, Nicoletti. No, lasciamo stare. Dica, non è per non me. Non per me, ecco, con tutto il rispetto per questa gente, no, non per me. Beh, però se uno è talmente disperato non può nemmeno permettersi di fare una passeggiatina, perché magari c'è la mamma, il papà dietro, non lascia solo un attimo, e quella è l'ultima chance. E questo è il momento giusto per dire ai genitori: non uscite di casa, non andate a Ponte Milvio, come diceva la mamma fanatica l'altro giorno. Abbiamo mandato quella telefonata, poi ha fatto epoca, sulla quale è intervenuto anche il premier Renzi, dicendo non mandate su WhatsApp telefonate terroristiche, ma evidentemente ha fatto più il messaggino su WhatsApp della mamma dicendo non andate a Ponte Milvio, perché Ponte Milvio era deserto, penso il primo sabato che Ponte Milvio è deserto. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Nicoletti, io la chiamo da Cesena, che è in provincia di Forlì, in Romagna, quindi io ho esperienza diciamo della mia città e anche di Forlì, perché sono due città che vivo, e è tutto normale, tutto tranquillo come sempre. Su questo non c'è nessun tipo di problema, però l'esperienza che le volevo brevemente raccontare era su Milano, perché sono stato su da venerdì a ieri, venerdì all'EICMA, quindi il Salone Internazionale della Moto, dove c'erano tantissime persone, ma a livello diciamo di presenza di forze dell'ordine, quindi polizia, carabinieri, militari, eccetera, non ho notato niente di più di quello che c'è solitamente in quelle occasioni lì. Mi aspettavo di vedere... Sì, anche una signora era molto preoccupata venerdì sul Salone della Moto, ma lo dico, non dovrei nemmeno dirlo, non pensiate che l'attenzione sono soltanto persone in divisa, ce ne sono anche tante che non hanno divisa e sono lì comunque a salvaguardare l'incolumità dei cittadini. Comunque lei non ha notato nulla di nuovo, al salone c'era lo stesso gente, anche se apparentemente non c'erano i carabinieri a cavallo a presidiare le motociclette. Camillo, buongiorno. Buongiorno, come va? Bene, complimenti per tutto. Sì, non la svacchiamo, andiamo. Questa è un'indagine sociologica che ha un suo significato. Vogliamo questa mattina capire, è una nostra idea preconcetta, ma ne stiamo avendo la conferma, che al di là delle prime pagine dei giornali che dicono le città d'Italia sono deserte, blindate, non esce più nessuno, il resto dell'Italia, che è tanta, che l'Italia non è soltanto Roma e Milano, ha continuato tranquillamente a fare la vita di tutti i giorni. La sua testimonianza. La mia testimonianza è che noto una certa carenza di popolo nella città. Quale Milano, città? Lei è milanese? Ah, ecco, perfetto. No, sono calabrese, io sono della Locride, sono a Milano da circa 10 anni. Ah, quindi sì. Noto che c'è una carenza in questo periodo, ma lo stesso discorso di Roma, nella piazza del Largo del Vaticano, che praticamente c'era poca gente. Ma quindi lei è stato sia a Roma che a Milano? Sì, a Milano vive mia figlia pure, sì. Va bene. Quindi quello che dicevo io è tempo fa si parlò di vigili di quartiere. Io avevo sognato, che poi diventa realtà, un vigile di quartiere assegnato in un perimetro specifico, che avrebbe fermato tutti coloro i quali non entravano nella sua memoria visiva e nella sua memoria. Vabbè, deve essere una specie di picco della Mirandola con la gente che gira. E poi li ferma Cioè, l'ha visto purtroppo al tempo di Charlie Hebdo cosa fanno i poliziotti di quartiere, quello ammazzato poverino sul marciapiede, per terra a implorare non mi uccidere, quello prende gli spari. Ho visto che è tornato indietro quel maledetto. Sì, adesso per dire, non è che il vigile di quartiere risolve il problema. Il vigile di quartiere... No. Sì. Sì, nei film di Mary Poppins il vigile di quartiere è utile, divertente e è scherzoso con i bambini. In questo momento forse ci vuole qualcos'altro. Ci fermiamo un istante, 800 24 00 24, continuiamo con l'indagine per il resto d'Italia, quella che non è Roma e non è Milano, cosa è accaduto questo fine settimana. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Otto zero zero ventiquattro, come avete passato questo fine settimana? A qualunque latitudine voi abbiate prodotto la vostra volontà di passare un fine settimana diverso dal consueto orario quotidiano di lavoro, di famiglia e via dicendo. Quello che non mi sorprende, perché me lo immaginavo, però stiamo registrando, è qualcosa di totalmente controcorrente rispetto alla vulgata informativa di questi giorni. L'Italia comunque tranquillamente vive lo stesso, come giusto che sia, naturalmente. Sei lontano dall'obiettivo sensibile annunciato dai giornali, quindi non stai a San Pietro, non stai alla stazione, non stai a Ponte Milvio, come diceva la mamma, ma non stai nemmeno al Duomo, non stai nemmeno alla Galleria, non stai nemmeno davanti alla Scala, e quindi per questa volta l'hai fatta franca. Mi scrive un ascoltatore: mi piace quando ti esprimi sentendoti superiore al prossimo. È chiaramente un messaggio ironico, vuol dire: chi ti credi d'essere? Non credo d'essere nessuno, faccio domande, è il mio mestiere, potete rispondere o non rispondere. Massimo, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Niente, io telefono da Genova e segnalo una presenza costante e accentuata delle forze dell'ordine al terminal traghetti, che via vai almeno una volta alla settimana di traghetti destinati alla Tunisia, al centro commerciale genovese, quello in città, è stato rafforzato sicuramente, ben visivamente, la presenza delle forze dell'ordine, comprese anche la vigilanza privata. L'unico dubbio che mi viene sono le discoteche, perché io ho lavorato nelle discoteche per diversi anni, ho smesso lo scorso anno, e non c'è nessun tipo di filtro, se non quello alla porta da parte di qualche buttafuori che, vedendo dei vestiti in una certa maniera, tende a lasciarti fuori. Però a prenotare un tavolo nel privé bastano telefonate. Quando i signori proprietari delle discoteche intravedono la possibilità di un buon guadagno, non stanno neanche a chiedere chi sei, da dove arrivi. L'importante per loro è portarsi a casa un tavolo con 7-8 persone e assicurarsi quei 500 euro. Lei, Massimo, dice una cosa interessante e importante, che considero totalmente originale nelle ipotesi vengono fatte ogni giorno. In realtà, per entrare in un locale non è che bisogna passare il vaglio del buttafuori con la faccia un po' coatta e con il giubbotto gonfio. Basta dire: prenoto un tavolo, voglio un privé, siamo 5 persone, siamo uomini e donne, fateci entrare da dietro, non vogliamo essere visti, e pagare profumatamente, io potrei entrare tranquillamente e sicuramente nessuno mi perquisisce. Assolutamente, proprio, anzi, le fanno un tappeto rosso, glielo posso garantire. Quando intravedono la possibilità di 7-8 persone, misto uomo e donna, e gli si paventa la possibilità di due belle bocce pesanti, guarda, io ho visto dei conti anche da 1.000-2.000 euro, questa gente qua 2.000 euro gliele tira fuori subito. 2.000 euro non è meno tanto per passare una serata in un privé in quattro, onestamente. Appunto. Dipende dalla città, Genova un po' di crisi c'è stata, le assicuro che i prezzi sono stati un po' raffreddati, però voglio dire... Cioè, quattro persone spendono in questi posti 10.000 euro come nulla, soltanto in bottiglie. Sì, io ho avuto la possibilità di lavorare anche giù a Sestri, Santa Margherita Ligure, Portofino, e ci sono locali dove fanno 10.000 euro. Quindi Massimo, che del mestiere, dice: per entrare in un locale, guardate, potete mettere tutti i poliziotti che volete davanti al locale, ma se uno sceglie la via della approccio alto e si mostra benissimo vestito, con donne splendide e con borsette firmate, può entrare in un locale semplicemente prenotando un privé, pagando cash, facendo vedere, facendo il grande, nel privé può fare quello che vuole. Questo è interessante, quello dice Massimo, una sua ipotesi naturalmente, però è un'ipotesi che poniamo al vaglio di chi di questo si occupa. Marco, buongiorno. Buongiorno, io mi rifaccio la stessa linea, intanto complimenti a lei, dottor Nicoletti. Non esistono più obiettivi sensibili, nel senso che ormai siamo sensibili tutti quando andiamo al ristorante o al cinema. Se al Teatro di Parigi 1 su 20 o 1 su 50 dei normali cittadini avesse avuto il porto d'armi con la pistola nella fondina, i 3 col Kalashnikov sarebbero stati fatti fuori. Beh, adesso... e sarebbero stati forse altri feriti, 3 o 4, perché uno spara male. Ok, invece che 130 morti avremmo avuto i 3 terroristi più altri 3 o 4 morti, sì, diciamo, si per prova sbaglio. Lei sta trasformando, scusi, un episodio importante, delicato, su cui ci sono ancora aspetti giustamente oscuri, perché è al vaglio di chi di questo si sta occupando, in una sorta di commento alla partita. Già qualcuno disse, se si fosse svolto in Texas invece che o in Louisiana invece che a Parigi, probabilmente sì, l'80% degli avventori sarebbe stata armata, ma mi creda, io penso che anche una persona con una pistola in quella situazione, in quella folla, con soprattutto dei nemici totalmente disinteressati al fatto di sopravvivere o morire, avrebbe fatto ben poco. Non credo che nemmeno nei film di 007 uno con una pistola mette fuori uso 3-4 persone con un Kalashnikov e anche ben dotati di esplosivi addosso. Alberto, buongiorno. Buongiorno, senta, io le chiamo da Bologna e la mia impressione sulla vita della città, che non è assolutamente cambiata a mio avviso, io la vivo abbastanza intensamente. C'è sempre un mortorio la sera con solo studenti e stranieri in giro per strada a Bologna. No, non è vero, non è vero. Adesso e molti umarelle che ancora rientrano. Adesso direi che con il rifacimento del centro storico, la pedonalizzazione del sabato e la domenica, c'è un mare, c'è un fiume di persone. Beh, quella è stata la Disneyland degli umarelle, quel cantiere aperto per mesi. Alto che il cinema. Io adesso cerco di mantenere la tradizione, appena vado in pensione vado sui cantieri. Ascolti, no, non vedo l'ora nemmeno io, prego. La questione è un po' questa, cioè, quindi a mio avviso non è cambiato granché nella mia città, questo rispetto ai comportamenti e alle abitudini e alle frequentazioni. Cinema pieni come al solito, piazza piena come al solito, eccetera. In breve, io vorrei porle invece a lei una domanda, non so se è pertinente, cioè su due temi: paura percepita, paura reale, ok? Mm-hmm. Secondo elemento, controllo sociale del territorio, perso negli ultimi anni, quindi abbandonato negli ultimi anni un controllo sociale che era secondo me straordinario nelle nostre comunità, perso a causa dell'aumento della paura percepita, che ha indotto una paura percepita che a mio avviso è differente dalla paura reale, e a chi fa comodo aumentare la paura percepita rispetto a quella, diciamo, reale. Diciamo, le rispondo velocemente: fra paura reale e paura percepita esiste una paura interiorizzata, fisiologica, quella che proviamo veramente tutti noi, una paura indotta che fa parte un po' anche di una moda mediatica. Di cosa si parla questi giorni se non del fatto che tutti abbiamo paura? Se vuole attaccare il discorso col tassista, col droghiere mentre gli fetta il salame, con l'impiegato delle poste mentre fa la fila, dice non è più come una volta, mi guardo in giro, ho paura, e questa è la paura mediatica. Poi la paura percepita è quello che uno ha veramente, se veramente uno non prende la metropolitana capa paura, oppure continua tutti i giorni a prenderla perché dice con un po' di sano fatalismo, poi tanto bene succede quando ci sono io. Rispetto al controllo del territorio, così le finisco in tempo per la chiusura della sigla, controllo del territorio, grazie a Dio non c'è più il vicino spione che ti guarda dall'usciolo ogni volta che entri e esci, c'è un controllo più diffuso e indiretto, noi tutti ormai controlliamo il nostro territorio facendo foto, postandole su Facebook e comunicandole attraverso i social media. Non a caso una delle misure di attenzione delle autorità belghe nella giornata di ieri, nella giornata della ricerca di Sala, era quella: evitate di fare foto e di diffonderle su Twitter. Roberto da Torino, una battuta, c'ha 15 secondi. Buongiorno Nicoletti, senta, io le dico, da Torino, dove la chiamo, la situazione non è assolutamente cambiata, anzi, tra sabato e domenica il solito delirio di folla nelle vie, nelle piazze, sotto i portici, dovunque, ci sono state anche tra l'altro un sacco di occasioni. Diciamo che a Torino a me mi ha sorpreso molto, c'era il Festival del Cinema, hanno fatto la maratona del Cinema dell'Horror, si sono chiusi in un cinema la sera di sabato, si sono usciti domenica mattina, hanno visto film horror tutta la notte, forse bastava accendere qualche telegiornale. A domani. Thank you.